Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi si parla della riforma dei porti dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, delle conseguenze sulla filiera logistica, dell'inasprimento dei controlli ad alcuni valichi di frontiera e quindi della Salerno-Reggio Calabria, che da simbolo di inefficienza e da arretratezza è destinata a trasformarsi in un'autostrada tecnologicamente all'avanguardia. In apertura, il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma dei porti, una riforma attesa da decenni, un atto che il governo considera cruciale per ridare competitività al sistema logistico nazionale. Ne abbiamo parlato più volte all'interno dei nostri programmi. L'obiettivo di fondo è fare sistema riducendo le zavorre della burocrazia, superando le contrapposizioni tra gli scali, alleggerendo la governance. Dalle 24 attuali autorità portuali si passa a 15 autorità di sistema portuale. Ma sentiamo un passaggio della dichiarazione del ministro Del Rio al termine del Consiglio dei Ministri. Le autorità si chiameranno autorità di sistema portuale esattamente perché vogliamo che il porto di Genova e Savona diventi il porto della Svizzera e del sud della Germania. Abbiamo già fatto accordi, stiamo facendo accordi per questo e vogliamo che i porti del nord Adriatico lavorino insieme per essere la porta d'ingresso delle merci dell'Austria e di tutto l'est europeo. Quindi c'è una ambizione di forte semplificazione, di efficienza e di capacità di intercettare la nostra, di sfruttare la nostra posizione geografica per promuovere sviluppo economico. Commenti positivi un po' da parte di tutte le categorie. Abbiamo raccolto quello di Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto. Conftrasporto e Confcommercio sono soddisfatti di quello che è stato realizzato, perché finalmente dopo diverse legislature, nel bene e nel male, magari non realizzando tutto quello che era la nostra idea. Noi pensavamo per esempio che si dovesse agire individuando 4-5 porti e lavorare su quelli, ma comunque è già un bel passo in avanti aver agito individuando quindi e creando le condizioni perché presto ci sia un momento di confronto attraverso il tavolo di partenariato nel quale sono state inserite le categorie come il commercio, il turismo. Questo vuol dire che attraverso anche la decisione di agire sulle infrastrutture, quindi rendere più veloci gli interventi nei porti, lo sportello unico doganale, la possibilità di agire sugli escavi e quindi rendere competitivi i nostri porti. Voltiamo pagina, ma restiamo nella stretta attualità. L'emergenza terrorismo condiziona i nostri spostamenti, la nostra quotidianità. Da una parte c'è la paura, dall'altra ci sono le conseguenze determinate dall'inasprimento dei controlli sulle persone e sulle merci in transito. Abbiamo visto cosa è accaduto a Dover dopo gli ultimi attacchi in Francia, code infinite di auto e mezzi pesanti, tempi di attesa lunghissimi. Inevitabili quindi le ricadute sull'intero sistema logistico continentale e un discorso particolare riguarda il trasporto delle merci deperibili sulle rotte internazionali. Pensiamo per esempio alla nostra produzione ortofrutticola. Proviamo a focalizzare la questione con il professor Luca Lanini, docente di logistica all'Università Cattolica del Sacro Cuore. I controlli antiterrorismo, come tutte le cose improvvise, almeno giudicare appunto dall'entità di questi giorni, non prevedibili, hanno degli effetti nel brevissimo periodo importantissimi, deleteri direi pure, soprattutto perché questo implica una sosta forzata delle merci. Ovviamente per alcuni prodotti, come i prodotti deperibili freschi, in particolare l'ortofrutta, in particolare cioè prodotti molto importanti per l'export italiano, soprattutto in questo periodo, è chiaro che l'incidenza è pesantissima, ma per un motivo molto semplice, perché il settore dell'ortofrutta e dei prodotti freschi lavora con tempi di reazione molto molto brevi, il cosiddetto lead time, il tempo che passa dall'ordine alla consegna è molto breve, spesso un giorno per l'Italia, 2-3 giorni per l'estero. Quindi 6 ore di ritardo su un tempo di trasporto e di consegna di 36, 48, 72 ore sono importantissimi. Di fronte ad un'emergenza destinata a protrarsi nel tempo, le imprese della logistica cosa possono fare per ridurre le conseguenze indotte da un regime di controlli che comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi delle consegne? Si possono fare due cose. La prima è innanzitutto inserire nei contratti atti di compravendita delle clausole in cui si giustificano dei ritardi per cause di forza maggiore. Ricordo solo che quando ci fu il picco del costo del petrolio, nei contratti si provavano a inserire delle clausole di pagamento di un surplus legato all'aumento del costo del trasporto, si chiamava fuel surcharge. Il problema di fondo rimane per un settore come quello dei prodotti freschi e di altri simili, dove i tempi di consegna sono molto limitati rispetto all'ordine. E questo, per ovviare, occorrerebbe ripensare la programmazione e la pianificazione delle consegne. Mi spiego meglio, se la merce parte dalla Sicilia per l'Inghilterra e deve essere consegnata in 48-72 ore, è evidente che in quel momento 6 ore di ritardo incidono moltissimo. Se invece il fornitore riesce ad avere un giorno di vantaggio sulla consegna stabilita al cliente, è chiaro che in quel giorno di vantaggio 6 ore riescono a essere gestite meglio. Non ci sono solo frontiere in termini di geografia politica, ci sono anche terre e strade di frontiera. Una di queste è sempre stata la Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada dei cantieri infiniti lungo la quale negli anni si sono rincorsi scandali e paura. Nei giorni scorsi, potremmo dire, il penultimo cantiere è stato chiuso e sono diventati percorribili 20 chilometri del nuovo tracciato tra Laino Borgo e Campotenese in territorio calabrese. All'interno di questo tratto è compreso il viadotto Italia, riaperto dopo il crollo parziale del 2015 nel quale morì un operaio romeno. L'ultimo cantiere riguarda la galleria Laria, sarà completata in autunno e il 22 dicembre è in programma l'inaugurazione. Per la Salerno-Reggio Calabria, insomma, si volta pagina e si guarda al futuro con l'obiettivo di trasformare il simbolo dei ritardi infrastrutturali del Mezzogiorno in un esempio virtuoso nel solco della tecnologia. ANAS infatti investirà 20 milioni per fare diventare l'A3 una Smart Road, un progetto all'avanguardia a livello mondiale. Al nostro microfono l'ingegnere Luigi Carrarini di ANAS. Oggi la strada non è più un insieme di cemento, di ferro, un'infrastruttura civile tradizionale, ma viene resa complementare e in tanti casi anche supplementare con i sistemi tecnologici che noi abbiamo intenzione di inserire sulla strada. Quindi le tecnologie che vanno praticamente nella direzione di innalzare il livello di sicurezza. Ma in concreto, quali possibilità tecnologiche, quali strumentazioni saranno a disposizione di automobilisti e autotrasportatori in viaggio sulla Salerno-Reggio Calabria? Primi fra tutti due sistemi Wi-Fi che consentiranno di mettere in rete e collegare gli utenti della strada con i sistemi di comunicazione che ANAS metterà a disposizione. In un prossimo futuro azioneremo un sistema di Wi-Fi in motion che quindi tramite un semplice terminale potrà i nostri utenti accedere alle banche dati, ai sistemi di infomobilità, alla ripetizione a bordo macchina dei segnali stradali e a tutta una serie di servizi di connessione che oggi le nostre banche dati possono mettere a disposizione. Naturalmente il nostro sistema si pone anche come traghetto verso i nuovi sistemi di Wi-Fi del tipo DSRC, Dedicated Short Range Communication, e che consentiranno di instaurare dei rapporti vehicle to vehicle e vehicle to infrastructure proprio a vantaggio della sicurezza degli utenti sulla strada. Va aggiunto un sistema del tipo green, rinnovabile a energie, che praticamente doterà tutta la Salerno-Reggio Calabria di cosiddetti punti di distribuzione, di produzione e di distribuzione di energia elettrica del tipo rinnovabile. Sistemi di distribuzione dell'energia elettrica in corrente continua su tutta l'autostrada che potrà essere poi successivamente utilizzata per implementare anche e soprattutto soluzioni innovative del futuro. Una notizia che riguarda direttamente le imprese di autotrasporto: con una delibera d'urgenza il Comitato Centrale dell'Albo ha riaperto i termini per la prenotazione della domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nel 2015. Sono state modificate la procedura e la tempistica per la presentazione definitiva con firma digitale. In particolare i termini per la prenotazione della domanda sono stati prorogati al 5 agosto, cioè c'è tempo fino a venerdì prossimo. E venerdì scatta il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Si tratta del primo dei 9 giorni di agosto con lo stop ai veicoli di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza. Venerdì dovranno rimanere fermi dalle 14 alle 22, sabato dalle 8 alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti, la prima di agosto, finisce qui. Noi ci risentiamo lunedì, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.